La periferia va in fumo come un gran pezzo di fumo. Alla casetta nessuno, oggi si sta a digiuno. Gente in manca, addormentata sul cuscino. Metà surreale stanca, arranca di grigni i denti e ne cerca altra. Le più belle cosce mai viste, un micio dolce come la sua risata. Patata arrossata, il male provato spariva. Morfina, medicina dell'anima ribolliva. Aspirina, sangue tero e la periferia tossica spariva. Bloccati in un lasso di tempo spirituale, in un loop che a volte fa male. Impressi i volti dei codardi, maschere a carnevale. Perso in una dimensione totale. Svoltare con le rime, fra dicono che lo potrei fare. Preso male dalla dose, a manca da separare. Il valium e il ributrizzo pulsone aiutano a rinascere, mentre si muove il tango dolente nelle viscere. La periferia va in fumo come un gran pezzo di fumo. Alla casetta nessuno, oggi si sta a digiuno. Gente in manca, addormentata sul cuscino. Metà surreale stanca, arranca di grigna i denti e ne cerca altra. Sole natio, entra in me dopo la notte dolente. Prima stella del mattino indica il cammino. All'alba risorgimi, mio piccolo divino. Salvami dal mio destino. Sole natio, entra in me dopo la notte dolente. Prima stella del mattino indica il cammino. All'alba risorgi mio piccolo divino. Salvami dal mio destino. La periferia va in fumo come un gran pezzo di fumo. Alla casetta nessuno, oggi si sta a digiuno. Gente in manca, addormentata su un cuscino. Meta surreale stanca.